Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro un po' particolare, innanzitutto perché è un ebook, un libro elettronico, un libro che può essere scaricato dalla rete e può essere scaricato gratuitamente, non costa nulla, basta andare sul sito www.indagenelast.it e parliamo del libro Profilo Italia, l'altro volto degli italiani, un libro scritto e curato da Daniele Marini. Buonasera Daniele Marini. Buonasera a voi. Daniele Marini è docente all'Università di Padova e direttore della Community Media Research che ha curato questa indagine. Ed ecco, qual è questa indagine di cui si parla, indagine che costituisce il cuore di questo libro, Daniele Marini? È in realtà un percorso di ricerca che ormai conduco da oltre un anno ed è un sondaggio svolto sulla popolazione italiana che cerca di cogliere, diciamo così, i cambiamenti culturali, quindi gli aspetti un po' più profondi, quelli non che attengono ai comportamenti immediati da parte della popolazione. Questo perché siamo partiti da un'idea di fondo, e cioè che l'immagine che spesso risulta dai mezzi di comunicazione, siano essi la carta stampata piuttosto che il web o la televisione, ci rimandano un'immagine dell'Italia, un profilo dell'Italia, appunto, che non è proprio corrispondente alla realtà. Allora, vediamo quindi questi punti forti di questo profilo, diciamo un po' inedito. Parla di mappe valoriali, questo libro parla di percezioni delle condizioni economiche, parla di stili di consumo. Quali sono le caratteristiche che possiamo mettere in prima fila nell'interesse proprio della diversità rispetto all'immaginazione collettiva? Come siamo veramente noi italiani? Daniele Marini. Due punti. Il primo, per esempio, sul tema dei consumi, è vero che noi registriamo statisticamente il calo dei consumi in questi anni di crisi, di difficoltà, però in realtà se andiamo a ben vedere quali sono gli orientamenti, cioè qual è la cultura che sta dietro ai consumi, possiamo osservare come la popolazione italiana mediamente sia ispirata a comportamenti che definisco di lusso riflessivo. Ovvero le persone sono sempre più attente al rapporto qualità-prezzo e quindi è vero che su alcune spese si spende di meno, ma su altre invece si è ben decisi a investire pur di ottenere quello che si desidera. E quindi non più un lusso sfrenato, una spesa incondizionata, ma un'attenzione prevalente al tema della qualità dei prodotti, oltre che della propria vita. E in un certo senso ci raccontiamo un po' peggio di quanto realmente siamo. L'Italia è un paese in cui da molte cronache emerge un paese di poveri. I poveri ovviamente ci sono, però sono forse meno di quanto viene raccontato, e è una società complessivamente del benessere quella italiana, Daniele Marini. Sì, ovviamente abbiamo a che fare con differenze di carattere territoriale fra il nord piuttosto che il mezzogiorno, però al di là di questo e oltre a questo, quello che è interessante sono appunto qual è il valore che noi diamo al consumo e come consumiamo, per cui ma è sufficiente osservare come nei periodi estivi i centri che offrono alberghi con benessere, con spa e via dicendo, comunque non rimangono privi di clienti. Questo perché, per esempio, si preferisce magari non fare 15 giorni, ma magari fare una settimana e farla con tutti i crismi. E questo identifica appunto cambiamenti culturali nell'idea di consumo della popolazione, che sono di lungo periodo, non sono soltanto legati alla contingenza. E questo, per esempio, è un aspetto che emerge da queste ricerche. L'altro punto che potrebbe essere interessante, che è interessante, è quello il PIL del capitale sociale, per così dire, cioè noi siamo abituati a misurare la ricchezza attraverso il classico strumento del PIL, del prodotto interno lordo, e ci dimentichiamo che abbiamo un altro prodotto interno lordo che è dato dalle reti associative, dalla coesione sociale, che è molto diffusa e presente nel nostro territorio. Ecco, però c'è a fronte di questo anche una percezione abbastanza negativa delle classi dirigenti. Agli ultimi posti vediamo i politici, i sindacati e i banchieri. Come mai questa classifica negativa per queste categorie di persone? Beh, questo è ovviamente il frutto della situazione che ormai ci trasciniamo da troppi decenni della nostra classe dirigente e della nostra classe politica. E quando parlo di classe dirigente non penso soltanto e non è soltanto appunto la politica, ma in generale gli esponenti dei mondi, dei vari mondi associativi di categorie, per esempio. Mentre invece, e questo appunto è un esito, diciamo, del clima politico, della sfiducia nei confronti non tanto della politica in quanto tale, ma delle persone che incarnano in questa fase queste figure. Ecco, bisogna anche dire che al vertice della classifica positiva della valutazione delle classi dirigenti ci sono i responsabili delle associazioni con finalità sociali di volontariato, i professori, complimenti, e gli imprenditori e i manager delle imprese. Gli imprenditori escono meglio dei banchieri. Sì, allora da un lato questo conferma quello che dicevo prima, cioè noi abbiamo un capitale sociale e le persone misurano l'azione delle persone sulla base appunto delle capacità di essere presenti sui territori. Ecco allora che i mondi del volontariato, dell'associazionismo vengono premiati da questo punto di vista, perché sono percepiti vicino in qualche modo. Gli stessi imprenditori comunque risultano avere una audience positiva, perché comunque sono persone che attraverso la loro attività non solo creano ricchezza, ma danno posti di lavoro, e quindi sono persone che vengono valutate positivamente. Questo però non vuol dire che non ci sia un distacco nei confronti della politica e che tutto sia negativo, perché in realtà in un'altra parte del volume analizzo gli orientamenti della popolazione relativamente alla politica e si vede come ci sia una parte consistente di popolazione che non si ritrova più nei classici destra, sinistra, centro come categorie politiche, e invece manifesta una forte domanda di politica, non una politica di professionisti, ma di una politica che faccia bene alla propria professione. E quindi bisogna cambiare anche le lenti con cui si guarda la società, sono cambiati anche è cambiata anche la dimensione appunto della realtà sociale. Ecco, interessante anche, oltre ad altri capitoli che riguardano la coesione sociale, gli immigranti, i diritti di cittadinanza, il capitolo dedicato alle generazioni. La generazione giovanile ne esce un po' male, i giovani vivono esclusivamente il presente per l'80%, è una realtà preoccupante questa, Daniele Marini. Questo è un portato comunque della nostra società, cioè nessuno di noi è in grado di fare previsioni di lungo periodo, né sull'economia, né sul paese, né tantomeno sulla propria vita. E questo spiega perché queste giovani generazioni sono portate, diciamo così, a soffermarsi soprattutto sul presente. L'elemento però sulla quale io spingerei di più la riflessione è il fatto che per questi giovani mancano gli adulti, cioè in realtà quelli che sono più in difficoltà e che sono meno riconoscibili sono esattamente gli adulti per le giovani generazioni, nel senso che gli adulti sono cresciuti e noi siamo cresciuti in un mondo dove i riferimenti di valore erano radicalmente altri rispetto a quelli di oggi, il contesto era radicalmente diverso. E oggi forse sono gli adulti che sono un po' più in difficoltà rispetto alle giovani generazioni stesse, e anzi da questa ricerca emerge come le giovani generazioni siano in ricerca di padri e madri significative, quindi di figure di riferimento, di adulti a cui ispirarsi. Quindi la responsabilità è soprattutto degli adulti, che magari creano anche delle barriere difensive di fronte ai giovani, difensive anche a livello politico, mantenendo certi privilegi, mantenendo certe posizioni, mantenendo certe condizioni anche di lavoro che sembrano escludere i giovani. In questo senso leggere questa indagine vuol dire anche capire che la società ha bisogno un po' di muoversi, di scrollarsi di dosso alcune vecchie pratiche, Daniele Marini. Assolutamente sì, sono le stesse giovani generazioni che lo richiedono, e anche perché, come sappiamo, sono anche quelli che vivono in questa fase una minor mobilità sociale rispetto alle generazioni precedenti, e questo è effettivamente una responsabilità delle generazioni più adulte, che sono quelle che hanno generato e creato questa situazione. Con questo senza nulla voler togliere ovviamente al fatto che anche le giovani generazioni hanno le loro responsabilità, però diversamente degli adulti sono in qualche misura già più attrezzati a convivere con una situazione che, se mi passa la battuta, è connotata dal fatto che oggi l'unica certezza di cui disponiamo è l'incertezza, cioè ci muoviamo in un contesto che è continuamente variabile, che cambia molto rapidamente e forse i giovani sono più attrezzati rispetto agli stessi adulti. Ecco, ma in questa prospettiva, e avviandoci alla conclusione, un capitolo del libro è dedicato al PIL della partecipazione. Si può scoprire che esiste una ricchezza, un PIL, un prodotto interno lordo, che non è misurabile con i soliti metodi quantitativi, ma che è un capitale sociale, partecipazione, voglia di, anche di volontariato, e voglia di essere comunque responsabile della società. Possiamo ripartire da queste basi, Daniele Marini? Questo sicuramente è uno dei fattori che può generare ricchezza e che anzi la genera, non solo dal punto di vista, diciamo così, della solidarietà sociale intesa nel senso di frenare le situazioni di difficoltà. D'altro canto proviamo a pensare a quello che è successo a Lampedusa con gli immigrati, piuttosto che alle molte Caritas che si sono dati da fare in questi anni a sorreggere, a sostenere la popolazione indigente, non solo immigrata ma anche italiana, che si è trovata in difficoltà. Questo è un aspetto, diciamo così, di contenimento delle difficoltà, ma che in realtà genera a sua volta ricchezza, perché aiuta lo Stato e tutta la collettività a non sobbarcarsi ulteriori oneri. Ma dall'altro lato esiste anche un mondo del volontariato che varia dalla cooperazione sociale piuttosto che alle imprese di carattere culturale, che sono invece altri elementi di cui dobbiamo tenere in considerazione nel momento in cui pensiamo allo sviluppo futuro del nostro paese. Un territorio poi come il nostro, che ha nel turismo, nella cultura, nell'accoglienza degli asset fondamentali, ecco, anche questi aspetti, anche le persone, le associazioni, le stesse imprese che operano in questi ambiti sono in realtà portatrici di ricchezza, fautrici di ricchezza, perché coinvolgono persone, perché creano coesione sociale, ma creano anche lavoro e certo, quindi appunto ricchezza che non viene contabilizzata. Grazie Daniele Marini. Indubbiamente la realtà italiana guardata bene ha anche tanti aspetti positivi, su questi aspetti positivi dobbiamo fondarci per guardare con fiducia, con ottimismo al futuro. Abbiamo parlato del libro con Daniele Marini, abbiamo parlato del libro Profilo Italia, l'altro volto degli italiani. È un ebook gratuito, può essere scaricato dal sito www.indagenelast.it, appunto un sito in cui sono raccolti queste indagini che Community Media Research, guidata appunto da Daniele Marini, ha realizzato in collaborazione con il quotidiano La Stampa. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Peter Bescapè in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.